vinto forse dalla morte scampò. Per ricompensa dei travagli sofferti, non chiede che l'onor d'essere ammesso innanzi a voi. Inoltre il nome suo va.